facciamo alleanze per spartirci i posti di sottogoverno. Poi, come diceva bene lei, se una proposta è valida noi non abbiamo alcun problema a votarla. Quindi non le vecchie alleanze, come dice il senatore Lumia, però di volta in volta siete pronti a votare i provvedimenti. Questo non è un po' pericoloso, cioè non è una maggioranza un po' sempre traballante, sempre sul rischio delle decisioni quasi quotidiane? Ma questo è un problema che scaturisce dalla legge elettorale per come è fatta e poi chiaramente anche dalla disgregazione che hanno avuto i partiti nel presentarsi alle elezioni. Però io non credo che Crocetta manchi la maggioranza, anche perché ci sono tutti i lombardiani che sicuramente gli mancano 6 persone per raggiungere una maggioranza minima. Non credo che abbia problemi a trovarli. I lombardiani, lei sta facendo delle accuse. Crocetta ha detto basta dire che io faccio accordi con quelli di Lombardia. Come si chiama adesso? MPA, PDS, via. Allora no, se non vogliamo dargli una targa nominativa, diamogli semplicemente una targa di partito. Allora quelli del PDS. Secondo lei cerca questo tipo di accordi con i lombardiani? È l'inciucione. No, sono le persone più vicine a pensiero possibile, diciamo. Cancelleri, Crocetta in un paio di interviste oggi a Repubblica e al Messaggero non le manda a dire però anche al Movimento 5 Stelle, dice io sono a 7 stelle, voi blaterate di una rivoluzione, ma il vero rivoluzionario sono io. Cancelleri, lei che replica? Ma io so che cosa devo replicare. Va bene, si tenga la sua rivoluzione con il 52% degli astenuti in Sicilia, se questa è rivoluzione, io credo che sia stata la sconfitta della politica, soprattutto quella dei partiti, perché l'astensionismo che c'è stato in Sicilia è figlio di una cattiva politica, di una cattiva amministrazione che sicuramente non è imputabile a noi. Poi lo vedremo, vedremo anche chi andrà a sedere fra i banchi della maggioranza per capire effettivamente come siamo combinati per quanto riguarda le persone che ci sono sedute. Io vorrei capire dal punto di vista anche della pulizia delle fedine penali come siamo messi per cominciare a parlare veramente di rivoluzione. Cioè ha dubbi che ci sia qualcuno con le fedine penali un po' poco pulite? Io non so le persone che sono state elette all'interno delle liste di coalizione che hanno sostenuto Crocetta, c'erano da prima, è stato denunciato da più giornali, non da noi chiaramente, noi abbiamo semplicemente appreso che c'erano. Allora vorrei capire se sono stati eletti, perché non ho visto i dati, quindi non so effettivamente gli eletti di quelle liste quali chi sono. Ma noi non vogliamo far cadere nulla, però io l'ho ripetuto più volte durante la campagna elettorale e l'ho ripetuto più volte anche ieri. Quando ho utilizzato quel termine siamo xitelleacidi, cioè nel senso non cerchiamo alleanze, non ci interessano, siamo pronti ad appoggiare tutte quelle idee buone, se avranno la capacità di proporne anche una sola noi l'appoggeremo senza problemi. Il discorso è semplicemente che mi sembra che si stia già cominciando a fare troppa retorica invece che cominciare a lavorare. La Sicilia è 50 anni che è in crisi, non è in crisi da ora, ha bisogno di persone che devono cominciare a lavorare sul serio per risolvere veramente tutti i problemi che ci sono. L'ha sentito Beppe Grillo? Ha già avuto modo? Sì, ieri ci siamo scambiati un paio di messaggi, insomma è molto contento del risultato e ha già lanciato il comunicato per le politiche dell'anno prossimo. Sì, questo sì. Ma anche lei si arrabbia se la chiamiamo Grillino, ma questa cosa, ma perché vi arrabbiate se vi chiamiamo Grillino? Mica è un'offesa. Non è proprio edificante, è come se ma uno che vuol dire? Lo chiamate Piddino. Ma vabbè, mica è un insulto, cioè Grillini è una sintesi giornalistica per dire del Movimento 5 Stelle. Cioè. No, va bene, io via non mi offendo, non sono queste le offese, chiaramente. Ci mancherebbe altro, appunto.